quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. 24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Attaccare! Ma devi gridarlo forte! Attaccare! Più forte! Non ho più voce! Più forte, perché attaccare, è nello stadio! Attaccare! Ma dai, state a vedere! Attaccare! Quanto sei bella Roma, quando è sera, quando la luna si specchia dentro il fontanone e le coppiette se ne vanno via. Quanto sei bella Roma, quando piove. È un buon sindaco o dovrebbe dimettersi? Credo non ha fatto in tempo a diventarlo sindaco. Cioè, le uniche cose che sono possiamo... due anni che governa. Certo, però non ce ne siamo accorti. Grande Roma, quando è il tramonto. Sto scherzando, io ho già presentato querela per diffamazione a Marino per questa follia. In realtà non è la cosa più grave lui ha detto è questa tornata nelle fogne, che siamo tornati agli anni 70, agli anni di piombo in cui ci sono questi slogan. E ti sembrano di quanto sei bella. Questo è stato percepito non romano. Diciamo che è un genovese, ecco. Innanzitutto. Però questo molte volte non è un... Però ha vinto le primarie, no? Ma questo è il problema del PD, direi, cioè le primarie. Cioè, primarie, ecco, qui lui è primario, quindi ha vinto le primarie. Quindi, cioè... La querela già presentata, assolutamente falso, e figuriamoci se io vado a mendicare da lui dei posti o altre cose di questo genere, e figuriamoci se questa è stata una conversazione di questo genere. E so più vivo, e so più buono. Non un terrazzo mai, Roma capoccia. Detto una settimana fa, Marino è finito politicamente e poi i tempi della politica sono questi, ma è finito. Però adesso lui alza i toni e secondo me fa anche bene, l'ho detto da tre giorni, perché non è possibile questa cosa di dire deve saper governare. Spero che questo valga per tutti i sindaci in carica in questo momento. E se no tutti via di colpo. Di colpo, tutti via. Mica aspettare alla fine del mandato. Tutti via di colpo. Tu sai governare? No, a due anni dal mandato. Via. Tu via. Tu via. Tu via. Ma è stato votato dai cittadini. Oggi ma attenzione, perché Renzi, racconta il Corriere, ai suoi con quel fare deciso ha detto così: Marino non è in grado di proseguire. Punto. E Marino va in giro a far battute, fa le V di vittoria, ride, pare che abbia detto ai suoi scherzando: ora decido a giorni se far cadere o no il governo. Non male come battuta, eh? E non perde il buon umore, il primario che vince le primarie, come lo chiama Venditti. In realtà ha perso un assessore in prota che, andandosene, racconta sempre il Corriere, ai suoi collaboratori ha detto: ormai Marino è fuori di testa. D'altronde quella destra torni nelle fogne, slogan anni 70, Alemanno l'avete sentito a Radio Cusano Campus dice, ricorda gli anni 70, anche a Repubblica ricorda quando ci sparavano nella schiena, ho sentito un brivido quando ha detto la destra torni nelle fogne, no? Quegli slogan anni 70. Questa è 24 mattino, sono le 6:30 minuti, ma che bella sta canzone di Venditti però. Ecco, una cosa che mi è sempre mancata, una canzone su Milano così, ce ne sono su Milano, ma dai. Quanto sei bella Roma. È su. Quando piove. Questo è proprio un inno, eh. Un inno alla bellezza di una città. E Venditti che dice il primario che vince le primarie, va bene. C'è il nostro Peter Bescapè in regia, c'è il nostro Lorenzo Nespoli in redazione, anzi mi entra qua, mi porta anche i file, vuoi dire qualcosa? Ah vabbè, questa è mitica Lucio Dalla a Milano, eh. Vabbè. Questa non è male, eh. Poi scritta da un bolognese peraltro. Vabbè, insomma, però Iannacci ne ha fatte su Milano. Ah, Lucio Dalla su Milano, eh? Sì, sì, sì, sì, sì, non male anche questa. Milano vicino l'Europa. C'è anche poi Milan e Benfica. Milano che banche, che cambi. Milano gambe aperte. Milano che ride, si diverte. Milano a teatro, uno le da torero. Milano che quando piange, piange davvero. Milano carabinieri, polizia, che ti guardano severi, chiudi gli occhi e voli via. Milano portata di mano, ti fa una domanda in tedesco e ti risponde in siciliano. Poi Milan e Benfica, eh? Milano che fatica. Beh. Allora, siamo qui con il Barlamento che può aprire insieme a Lucio Dalla. Scomparso troppo presto. Un caffè, quindi se mai ci vediamo più tardi. Insieme al ministro Boschi, che no, va a prendere il caffè, poi ci vediamo più tardi, forse, non lo so. E insieme intanto al nostro grandissimo, il nostro Vincenzo, io ti ammazzerò. Eccolo qua un altro milanese, Alberto Fortis. Grande. Potremmo mettere quella di Fortis sui romani. C'è anche quella di Alberto Vincino, buongiorno. La conosci quella di Alberto Fortis sui romani? Io vi odio a voi romani? Mi sembra di sì. Dai, sì, è abbastanza. Come stai? Tutto pensavo Vecchioni più su Milano, era. Sì, vabbè, Vecchioni, certo. Iannacci. Sì, parecchi, però devo dire. Venditti non è male, eh? Come Venditti con Roma, che quando la Roma vinceva lo scudetto cantava un milione di persone circo massimo, sì. E li emozionava tutti con certo. Ferilli che non si spogliava, là era. Tu lì, eri lì, dai, spogliate. Ma non si spogliò, alla fine non si spogliò proprio. No, non si spogliò, non si spogliò. Ma senti questa, quella è quella di Fortis, vabbè, è storica questa, fu anche boicottato per questa, eh. Io vi odio voi romani. Falsi come Giuda, e dirvi Giuda un complimento. E vivete ancora adesso avanti Cristo. E trattate gli altri come i vostri nonni coi cristiani. Io vi odio a tutti quanti voi romani. Una bellissima canzone, peraltro, nonostante il testo non sia stato molto apprezzato da Roma, da quelle parti. Stupendo. Era il testo più cantato dai leghisti, peraltro, come la nostra. Sarà. Oggi abbiamo fatto il canzoniere praticamente, un jukebox siamo oggi, non siamo una canzone, una trasmissione, ma un jukebox con la nostra Aurora Russana. Ma è la prima volta da sposata? No, no, è la già. Ma no, ma ormai è una vita che sono sposata. Ma sei separata. Ormai sei quasi separata. Mamochela. Allora, buongiorno a te, buongiorno a Vincino e soprattutto buongiorno ai tanti, troppi amici di Radio 24, anche a Pontida. Tutti a salutarmi, ti sento da Milan, ti ascolto 24 mattina. Qui sì, c'è da aprire un'inchiesta interna al movimento. Un po' più di entusiasmo quando lo dici, non dirlo con quel tono, come dire che due palle. Bisogna ascoltare ovviamente solo e soltanto Radio Padania Libera, saccheggiata spesso comunque anche da Radio 24, sì, sappiamo. Sì, però mi preoccupa sta cosa, ma sai quanti ragazzi, anche tanti camionisti che ti ascoltano? Sì, ma anche belle ragazze? Ma perché no? Qualcuna ti ascolta? Hai esitato, non è vero, l'hai inventato, chiaramente nessuna. Capito Vincino, tu ascolti Radio Padania? Ma Radio Padania libera. È il movimento, la Lega di prima, di 10 anni Ma infatti Radio Padania Libera, ha cambiato il nome. Radio 24 è come dire, è la radio della Lega di oggi, la Lega Nazionale, è così, è la realtà. Esatto, Radio Padania Libera, ma non avete ancora non vi ha ancora rottamato Salvini cambiando il nome? No, interviene quotidianamente Matteo Salvini. Sì, un giorno radio. Però vi chiamerete, non so, Radio Terronia Libera, non lo so. E perché no? Ma cos'hai contro la Terronia? Ma pensa a te. No, io niente, siete voi che avete cambiato lievemente. Io ci avrei qualche cosa, non mi chiamerei mai Terronia. Vabbè, noi siciliani, come dire, amiamo la nostra... Radio Trinacria Libera, ecco, potrei essere Radio Trinacria Libera. Anche là non mi suona bene, no, come cosa, vabbè, come dire. Però, Vincino, devono cambiare nome, sei d'accordo? Radio Padania Libera. Assolutamente sì, assolutamente, Radio Padania Libera proprio è... Sono proprio dire, vecchi. Ma Salvini di oggi è impegnato che deve ruspare un po' sul Milan oggi, c'è altre cose a cui pensare. Sì, oggi vede il Berlusca, stasera. Deve salvare il Milan, evidentemente. Sì, certo, arriva Salvini a salvare il Milan, siamo a posto, siamo tranquilli, siamo sereni. Magari ci capisce più di tanti altri ex allenatori. Milan, posso dire una cosa? Sì. Ieri è fallita definitivamente, andrà in Serie D e oltre Parma. La prima città governata da un 5 Stelle. Ma cosa con c'è? Un sindaco 5, ma no, cosa c'è? Ma stai scherzando, cosa c'è? Ma tu ti credi che se il Palermo c'è una cosa così, ma Orlando non riusciva a salvarla? Assolutamente. Quindi ma colpa di Pizzarotti. Ma no, colpa di Pizzarotti, è proprio lo squallore di una città governata da un deficiente 5 Stelle. Come va? Il Parma in Serie D è una cosa insopportabile. Cioè, giocava in Serie A quest'anno, no? Certo, era anche no? Una bella squadra. Qualche anno fa vinceva. Vinceva col Palermo pure. No, vabbè, quindi doveva fare qualcosa. Doveva fare qualcosa, come dire, era normale fare qualcosa. No, questo è vero. Cioè, era normale in genere dire, un sindaco andare a cercare, non l'ho mai sentito. Non l'hai mai sentito. Non l'ho mai sentito. Quattro polemichine tra loro interni e basta. E basta, no? Vabbè. La tua polemica col Movimento 5 Stelle non te l'avevo ancora chiesta oggi alle 6:37 minuti. Te l'ho data io prima, no? Ora invece con il Quirinale. Quirinale, fermati. No, vorrei capire da Aurora Lussana allora. Stasera poi parliamo di Roma e di Marino, perché le dinamiche della politica sono queste, vorrei capire che ne pensate. Ma stasera Salvini va da Berlusconi, ma cosa c'è? Il grande accordone, l'accordicchio, il patto della melanzana, come si chiamano? No. Non so, ci sarà un incontro sulle ipotesi future, perché no, magari di collaborazione. Certo. Poi Berlusca mi pare che debba partire per Antigua. Sì, prima va in Russia a rimettersi un po' a posto e poi... Sì, sta raccogliendo magari un po' di idee, insomma, e quindi fa bene incontrare Salvini dopo, insomma. Ho capito, ma di che parlerà? Dai, cioè, se non vi unite nel centrodestra, ma dove cosa pensa Salvini di vincere da solo, prendere il 30-40%? Ma dai, su. Siamo seri, va bene sognare, ma ci saranno delle strategie sul tavolo stasera. Perché ride Vincino? Vincino ride sulle strategie. Non lo so. Ci saranno delle strategie, lo sai che mi sembra Ferrini quando parla. Chi? Ma no. Ferrini, quello là della radio della notte, no? Quelli della notte, ci saranno delle strategie. Il partito farà il coso. E cosa deve dirci? Saranno delle convergenze. Convergenze. Vabbè. Ma no, comunque Salvini credo che voglia trattare. Niente fusione, ma dovrebbe esserci una bella trattativa. Ma no, ma ha ragione. Cioè, ma te lo vedi Salvini che fa la fusione? C'è il grande centrodestra Salvini con Alfano. Te lo vedi? Lo sai l'ultimo disegno che ho fatto, che uscirà domani su Vanity Fair? Salvini trasforma l'uomo, trasforma, che trattore uomo cosa, prlac, sì, si sente Esattamente. Vabbè. Comunque, scusa, Vincino, ci chiedono subito, arrivano tanti messaggi. Cosa avrebbe dovuto fare Pizzarotti? Impegnare soldi pubblici di Parma? Complimenti alla solita disinformazione di Vincino. Avrebbe dovuto riunire, che ne so, fare una colletta pubblica industriale di Parma, che ne so, qualcuno. A Parma è una città piena di gente ricchissima, ma per favore, quella fallisce per 10 milioni. Ma una cosa, guarda, che ne so, guarda, cioè 10 milioni non sono cavoli, 20 milioni quanto è poco, è fallita per pochissimo. È fallita per pochissimo. Poi il bello è che è fallita anche perché due, tre spiantati imbroglioni hanno tentato di prenderla nel lungo. È vero. Allora, vabbè, ma chi seria. Adesso chiameremo Pizzarotti e glielo diremo che la pensi. Però così. Non ha tutti i torti Vincino, cioè tipo neo sindaco di Venezia ha salvato la squadra di basket. È vero, sicuramente è apprezzato. Ma certo, ma una squadra di calcio è anche un simbolo di una città, soprattutto in una realtà magari un po' più piccola come Parma. Rispetto gli costa un giocatore, capito? La Juventus si compra uno e si poteva comprare il Parma, no? Che ne so, scusa, quello che adesso la Juventus si compra il Parma, ma non lo so, ma adesso faccio la già si compra gli arbitri, battutaccia, adesso Milan viene distrutto, ecco, anti-juventino, è una battuta. Tutta, amici, sorridete un po' di più. No, ho detto già si compra gli arbitri la Juve, esatto. Ma adesso un arbitro in meno e un Parma in più. È un Parma in più. Era una battuta. Se no, qua arrivano, sono già pronte 70 querele di gente che non sa ridere, non sanno ridere. Noi facciamo satira, io sono come Vincino. Però Aurora Lussana invece anche più in carcere per noi giornalisti. Infatti. A Pontida che è successo? Sì. Dai, com'è andata? Ah, una meraviglia. Bello. Dai, raccontaci un po', la cosa più bella di Pontida, cosa hai visto? Ma tanti bimbi con la maglietta lavoro in corso. Ride, sei orgogliosa di questa cosa? No, una bella giornata, tante famiglie, tante coppie, intergenerazionale questa bene, cosa, davvero, tante persone insomma anziane che... Quindi il futuro della Lega è salvo, perché ci sono, bello. Ci sono tanti bambini. Pochi cornuti quest'anno, pochi devo cornuti, dire. Sì. Sì, questo mi dispiace un po' perché insomma sai nella mitologia celtica c'è lo spirito dei maschi cornuti, insomma Amore panico? Amore panico? Ce n'è stato? Sì, il dio della fecondità, della natura selvaggia, sono cose... Così, erano un po'... No, dico, ma amore, cioè orge paniche, ce ne sono state in albergo, magari? Ma l'avranno fatte i giovani, ormai, come sai? Io facevo la cronista, ascoltavo, guardavo quello che succedeva. Dai buchi della serratura, guardavi? No, il pratone strapieno, piedi della abbazia di San Dai, dite anche voi come quelli di Piazza San Giovanni, quanti eravate? 500.000? No, saranno state 50.000 persone. Una roba così. Potevi fare un giro a Milano che vedevi. Sì, ero al mare, ho detto vabbè, quest'anno vado a prendere un po' il sole. Vincino, ci sei stato tu? Mai. Ma come mai? Mai. Neanch'io mai. Mai, appuntita mai, proprio mai. Non mi sembrava una cosa. Vabbè, come dire. Cosa? Abbi il coraggio delle tue azioni. Che cosa? Quello schifo, le barbe verdi, quelle cose là così. Dai un po' di colore. Ma cos'è? È islamico? No, dice sei islamico che non mangi le costine. Sono islamiche quelle barbe verdi. No, il verde è il colore dell'islam, ma la barba lunga è però le costine non sono molto islamiche. Le costolette di maiale non sono molto islamiche. No, le costolette di maiale no, diciamo, non sono. Però non devo dire, non mi attira, ma così, non sarà una... Ma sì, ma un legittimo pregiudizio, no? Sì, è un po' un pregiudizio. Vabbè, però dai, voglio chiedervi subito che ne pensate di Marino. Allora, Vincino, quante volte hai cantato lo slogan ai bei tempi tuoi, fascista carogna torna nella fogna, dai. Poche volte. Ammettilo. Ma io non sopportavo manco ai tempi l'antifascismo militante urlato romano, mi dava già fastidio ai tempi. Ti dava fastidio. A me quando uno mi diceva, dice, sai, ho visto dei fascisti che leggono il male, ho detto, bellissimo, mi può solo che fare bene. Dico, un poco di... li volevi convertire tu? No, ma non li volevo convertire, ma non mi dava assolutamente fastidio, ero molto contento di questo, che che anche dei fascisti leggessero il male, assolutamente. Io sono stato picchiato dai fascisti, non ho mai preso un bastone, una cosa, mai, niente, assolutamente, non è nella mia indole questa cosa. Però Marino invece Marino è un cretino, è arrivato totalmente, lui cerca di svendicare proprio il perché lo sa che nei cinquantenni, sessantenni c'è sinistra, di estrema sinistra. Però Renzi pare che abbia detto: non mi impressiona le truppe cammellate che si è portato per farsi applaudire alla festa dell'unità, dove ha letteralmente sbroccato nei confronti della destra, Marino. Ed è quello che veramente io ho visto arrivando in Campidoglio, e dobbiamo dirlo, dopo le rovine lasciate da quella destra che oggi si erge a scudo morale di questa società. Ma non hanno vergogna? Perché non tornano nelle fogne da dove sono venuti? Questo è forte. È là che devono andare, Aurora, questo è forte. Questa è forte. Sì. No, temo che l'allegro chirurgo abbia perso ogni serenità, ogni lucidità a evocare questo linguaggio. Sì, però tu saresti lucida con uno che ti dice Presidente del Consiglio ogni tre giorni, tre volte al giorno se ne vada. Diciamo che lui, magari a differenza mia, doveva mostrare un pochino più di freddezza. Voi anche per il lavoro che fa, insomma, invece lo vedo abbastanza io sono già scomposta di mio, irruente di mio, insomma. Ieri si è mostrato, insomma, lì alla festività si è mostrato così, come una persona capace ormai. Pensa se tre volte al giorno ti dicessero, magari te lo dicesse la Boschi, l'Aurora si guardi allo specchio. Sei delusa perché vuole andare a bere il caffè con Salvini, È vero, fammi mandare il traffico. E che poi questa, ha detto questa andarci col C attualizzato. Dopo lo sentiamo, perché questa cosa è incredibile. La Boschi vuole andare a bere un caffè con Salvini. Il maschio padano. Mi scusi, dovrei andare per il traffico. Più avanti, grazie. 24 mattino. Marino, cucù, Martinez non c'è più. Marino ha detto che noi di destra veniamo dalle fogne. Allora io ci tengo a dire che non sono venuta da una fogna, ma che se continua a governare lui Roma, finiremo tutti nelle fogne, compresa la sinistra che lo appoggia. Amore, mi prenderesti il ketchup? È lì in frigo, sulla seconda mensola, a fianco a Salvini. I will tell you my story, especially the part about the girls and the banga banga. Milan, te lo dice un romagnolo, ma sei fuori come un coppo! Ciao Alessandro Milan, volevo solamente dirti che a me questa berga femmina di Aurora Lussana mi fa sangue. Pronto Lino? Fammi sentire come dici attaccare. Sì, attaccare. Non sento, più forte. Attaccare. Non sento, più forte. Attaccare. Facci sentire come dico attaccare. Attaccare. E vabbè. Bravo, bravi, complimenti. Siamo qui, Vincino, tu sei uno di quelli che attaccano. L'hai sentito Berlusconi come attacca? Non hai visto il video di Berlusconi che urla a Inzaghi come si dice attaccare? No, te la sei persa questa, non spogliatoio del Milan. Ma questo qui non va a Pontida, non sa quello che dice Berlusconi. Ma è l'audio definitivo, insomma, di Silvio Berlusconi, che con un Inzaghi perplesso gli dice: attaccare! Ecco, questo. Era un po' più completo. Comunque, allora, cara Aurora. Visto, vuoi il numero di quell'ascoltatore? No, scherzo. No, ma fa sangue, una bella cosa. Va bene, c'è chi impone Lussana, conduttrice di 24 mattino, Milan, ospite ogni tanto. Ma ogni tanto, se vuoi chiamare una volta a settimana, così io ti rispondo. Allora, La Boschi da Salvini. Cioè, nel senso, Mi piacerebbe. Mi piace. Cosa potrebbe dire? Dai, forza, Maria Elena, cosa potresti dire? No, a parte che ha detto: Salvini non lo conosco e ci prenderei un caffè per parlarci di persona. E adesso io non so che studi ha fatto dando ci prenderei un caffè per parlarci. Per parlarci, parlargli. Sì. Vabbè. La lingua è nata lì. Non sciacquare i panni nell'Adda prima di parlare. No, ma come sciacquare i panni nell'Adda? Ma la favella, la lingua è nata lì. Dante, capisci? Ma Vincino, no. Ma devi qualcosa? Ma che arroganza hanno? Stanno prendendo dei voti e si mostrano, questi al potere. Te li vedi al potere? La Sicilia è nata, ma me li sono visti al potere. Eccolo lì. No, sì. non ma insomma una decina d'anni. Io una cosa che non capisco è questa: quando Renzi dice cioè Berlusconi ha governato 20 anni, ma scusi, questa cosa di regalargli 10 anni, no? In più, che quello già ne ha tanti, sì. Io non la capisco. Non la capisci. Hanno governato 10 anni cada uno. Va bene, e infatti, ma la vogliamo un po'. Sono 10 anni prima. Ma infatti, ma poi la vogliamo un po'. È tornato 2 volte, ha vinto sempre Prodi. Ma la vogliamo un po' indisporre questa Aurora Lussana? La vogliamo indisporre? La vogliamo un po' innervosire? Allora le facciamo sentire il suo cantante preferito, Piero Pelù. Piero Pelù è uno che fa delle belle canzoni. Ai tempi dell'Itfiber era un grandissimo. Poi un po' si è perso, però ha sempre la sua verva. Piero Pelù. Qualche ruspa vada alla sede della Lega, alla sede della Lega, la temi la ruspa che arriva lì in via Bellerio, ti spiana giù tutto, cara Aurora. Va bene, troverà tanta gente col badile e si lavorerà insieme per costruire una nuova sede, si farà uno scavo e lui magari darà una mano. Faremo una nuova sede, sai? Ah sì? Sì, quella è bruttissima, hai ragione. Perché quella è bruttissima? Sei stato un palazzaccio orribile. Sei stato nella sede della Lega? Ma no, l'ho visto in foto. Io ci sono stato. Aurora mi ha invitato. Abbiamo pranzato anche insieme alla mensa. Non è stato contaminato dalle radiazioni. Sono uscito, non mi sono intossicato. Sono stati gentilissimi. La Lega è antica proprio in realtà. Come proprio è arcaica. Sì, non è arcaica, no. È meglio, no, è antica. Antica. Mentre tu Vincino, ma tu sai con chi si è sposata Aurora Lussana? Mi sembrava davvero. Te l'avevo già detto, con l'onorevole Nicola Molteni della Lega. Di Cantù. Vuoi sentire la voce dell'onorevole Molteni? Vuoi sentire cosa pensa del tuo presidente del Consiglio, l'onorevole Molteni? Senti un po'. Credo che il primo clandestino presente in questo paese sia il Presidente del Consiglio, che siede a Palazzo Chigi senza una legittimazione popolare. Cioè queste cose le dice anche a cena, a colazione. No, penso che nell'ambito pubblico si contenga il rispetto. Ah, ecco, si contiene, capito? Nell'ambito pubblico, perché a casa invece Vincino cosa dirà di Renzi? Vabbè, ha sposato un estremista integralista. Eccola, estremista, dai, dacci la ricetta finale, che qua da sposata ti fai portare al ristorante, ma c'è gente che vuole la ricetta, di Aurora Lussana. Allora, periodo di magra. Mi hanno regalato le ciliegie, una cassetta di ciliegie. E cirase. Che vado avanti a mangiare le ciliegie. Cirase, giusto Vincino, cirase. Le cirase. Il serese a Bergamo. Come si dice in palermitano, Vincino? Ecco, come si dice? Le ciliegie. Io chiamano le ciliegie, però si chiamano cerase, no? Come il vostro direttore, cerase. Come il suo direttore, vedi? Come il direttore. Va bene, avanti a ciliegie, così va avanti Aurora Lussana, che da quando è sposata ci parla un po' meno di amori panici e amori ancestrali, ma tornerà presto, grazie Aurora Lussana e Vincino, alla prossima. Attaccare il segnale orario vi è offerto da Proteggi la tua casa. Index isola, impermeabilizza e risana in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. 1, 2, 3. Adesso

come Roma, quella che oggi Carlo Verdone su Repubblica definisce ormai solo una città grande, mentre un tempo era una grande città. Allora, la storia che vi vogliamo raccontare è quella che, come dico io, vi farà arrabbiare, imprecare, interrogare, tenere le mani ben strette sul volante se siete alla guida. È la storia dei 42.000 errotti immobili di proprietà del Comune di Roma. È una storia che vede protagonista un signore, si chiama Giampaolo Cuccari, che è qui ai nostri microfoni, lo ringrazio, buongiorno e benvenuto signor Cuccari. Buongiorno. Eccoci. Buongiorno a voi. Cittadino che a un certo punto della sua vita cosa ha fatto? Si è messo lì a controllare, proprio a spulciare, come raccontavano Stella e Rizzo, immobile per immobile, quelli almeno che sono accessibili, 24.525 appartamenti di proprietà del Comune di Roma. Cosa ha scoperto, signor Cucca? Che cosa ho scoperto? Ho scoperto che dei 42.400 immobili ne erano stati pubblicati 24.500, comunque sul Comune di Roma, senza essere hacker e niente. E di questi 24.500 appartamenti avevamo degli affitti irrisori. Gli affitti irrisori stabiliti comunque da una legge regionale dell'87, giusta sì. Perché per persone che avevano disabilità, problematiche. Solo che la legge prevedeva, comunque aveva 30 articoli, quindi è molto articolata, prevedeva che comunque ogni anno ci fosse stato un aggiornamento Istat, che ogni due anni si andasse a verificare la congruità, o comunque che il nucleo familiare non aveva avuto, non aveva subito comunque delle problematiche tipo separazioni, morti, via discorrendo, oppure degli incrementi comunque. Certo, ma quando lei parla di affitti irrisori cosa significa? Allora, affitti irrisori vuol dire che il 30% di questi appartamenti pari a 7.000, siamo al 15.000 lire come era stabilito dalla legge, è diventati poi 7,75 euro. Cioè 7,75 euro di affitto al mese? Al mese, quando è passato con l'euro. 7,75 euro. Esatto, quindi cosa che ci fa pensare che in 30 anni non c'è stato mai un aggiornamento. Cioè ci sta dicendo che 7.000 case più o meno del Comune di Roma sono affittate a 7,75 euro al mese. Detto, non sono soltanto le 7.000, poi ce ne abbiamo 5.000 che sono a meno di 50 euro. 5.000 a meno di 50 euro. Poi 7.000 a meno di 100 euro. 3.000 a meno di 200 euro, quindi tutto quanto a scaglioni. Sì. Poi arriviamo ad avere 430 case su sempre i 42.000, che sono intorno ai 1.000 euro. Cioè, ora, non ci dà neanche di sapere che metratura abbiano queste case qua. Cioè ci sono su 42.000 case solo 430 sono affittate a 1.000 euro, che è già un prezzo che per Roma, voglio dire. No, voglio dire, Roma, se tu comunque parliamo comunque di case che insistono sul centro storico, non nell'estrema periferia, ecco. Perché parliamo dell'87. Quindi sì, certo. Non sappiamo la metratura, posso anche pensare che queste pochissime case di 1.000 euro siano 300 metri quadrati a Piazza Venezia, da tanto per essere capito. No, vabbè, ma sono cifre davvero, davvero incredibili. No, cioè che sono cifre che fanno indignare comunque il cittadino, perché comunque sono i soldi del cittadino. Anche siamo perché noi, lei, no? lei dopo aver fatto questo lavoro, cioè ha controllato 24.525 appartamenti, perché è su 42.000, perché esatto. gli unici accessibili erano questi 24.000. Sì, penso che quegli altri 17.000 forse neanche hanno i 7,77 di affitto, oppure non so. Beh, addirittura vengono dati gratis. Sì, signori, perché non esistono 17.000, stiamo parlando di un paese. Chiaro. 42.000 vuol dire una cittadina, cioè stiamo parlando di veramente una grossa quantità immobiliare. No, ma perché di 42.000 è il patrimonio totale, di 24.000 esatto. si conosce il canone, e il canone è quello che lei ci ha detto, cioè il 30% 7,75. Tra l'altro lei, dopo aver fatto tutta questa ricerca certosina, ha scritto alla Procura della Repubblica, no? Esatto, ho scritto sia alla Procura della Repubblica sia alla Corte dei Conti, in maniera perché si può comunque prefigurare sia un danno erariale ma anche nel penale. Le hanno risposto per ora? Non mi hanno risposto. Siamo in attesa che si risponda, cioè è una cosa talmente eclatante sotto gli occhi di tutti che quindi... Che una, almeno una risposta, cioè, poi almeno c'è... una risposta o magari staranno indagando, adesso noi non lo sappiamo. No, stiamo indagando, però voglio dire, la cosa ridicola è che comunque noi percepiamo, perché poi abbiamo visto tramite anche le trasmissioni televisive o altre situazioni, che molti di questi dei 777 neanche pagano l'affitto da anni, quindi hanno 50.000-60.000 arretrati. Quindi, non c'è un, no, è ancora peggio, perché non c'è un contratto e non sono stati mai certo. I bollettini. Ora si può anche prefigurare che ufficialmente si paghi 777 e ufficiosamente forse ci siano altri introiti per la situazione. Lei dice che magari in nero. Potrebbe succedere, può essere male, come diceva quel tale, siccome diceva quel tale, si può anche. E a pensare male, visto insomma tutto il degrado che c'è stato, ma delle macchinette obbligatorie dell'ATAC che venivano stampati biglietti, no, voglio dire. No, ma è abbastanza chiaro. Ma guardi, alcuni dati che ci ha dato il signor Cuccari sono già molto, molto esemplificativi. Io voglio salutare, le presento Riccardo Maggi, che è presidente del Radicale Italiano e consigliere comunale a Roma. Maggi, buongiorno. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Allora, Riccardo Maggi da un bel po' di tempo denuncia quello che Cuccari ci sta dicendo, così come altre cose. Intanto, com'è possibile, Maggi, che un patrimonio immobiliare di un comune venga svilito così dal punto di vista dei soldi? Ma intanto è possibile perché il Comune di Roma ha perso il controllo del proprio patrimonio immobiliare da molti anni, e però questa non è una cosa casuale, è una cosa funzionale. Quello che ha potuto fare il signor Cuccari è stato possibile perché lui ha potuto consultare online, appunto, ha detto, senza essere un hacker, almeno una parte di questo patrimonio immobiliare. Noi facemmo questa battaglia con Rita Bernardini 15 anni fa, nel 2001 ci fu una prima pubblicazione online. Poi c'è stata una delibera che l'anagrafe pubblica del patrimonio immobiliare, che è sempre rimasta inattuata. Poi c'è stato il decreto legislativo 33, quello del governo Monti sulla trasparenza, che prevede e obbliga questa pubblicazione, seppure parziale, perché poi ci sono dei problemi di privacy. Lo scandalo del patrimonio immobiliare del Comune di Roma è a più livelli, perché quelli di cui voi avete parlato è il cosiddetto patrimonio disponibile, cioè sono case che negli ultimi, case ma anche negozi, locali commerciali, che negli ultimi 50 anni sono stati dati con criteri più o meno discrezionali, e poi non è stato mai controllato, appunto, quello che diceva il signor Cuccari, cioè si sono modificate le condizioni a cui erano stati dati questi immobili. Un altro livello è quello delle concessioni, cioè sono immobili dati a un mare magnum, sono centinaia di immobili dati a partiti, sindacati, onlus, associazioni culturali, in molti casi con ordinanze del sindaco che si perdono nella notte dei tempi, quindi atti del tutto discrezionali, senza nessuna procedura a evidenza pubblica. Poi successivamente, ora non sarebbe più possibile farlo, ma diciamo ma negli ultimi mesi abbiamo sventato dei tentativi che ancora volevano infatti continuare. La cosa clamorosa però, Maggi, è che quello che Cuccari ha fatto da privato cittadino dovrebbe farlo una sana politica, ma non mi sto riferendo a questa specifica giunta, perché poi il problema è annoso e deriva dal passato, sto dicendo di tutti coloro che hanno amministrato Roma. Cioè, è possibile che debba un privato cittadino fare quello che un sano organismo politico dovrebbe fare, Maggi? Attenzione, ancora prima che una sana politica, una sana amministrazione. Noi in questo momento abbiamo indagati i vertici del Dipartimento Patrimonio del Comune di Roma. Cioè, quindi anche l'aspetto dirigenziale, voglio dire. Ma soprattutto perché qui si profila proprio una cattiva amministrazione da un punto di vista di danno erariale, da un punto di vista. E la politica poi dovrebbe controllare e dare gli indirizzi strategici. Ma ancora pochi mesi fa, poche settimane fa, quando è stata approvata l'ultima delibera per la vendita di una parte del patrimonio immobiliare, che il sottoscritto non ha votato contro, anche se pur essendo in maggioranza, gli uffici non ci hanno fornito gli elenchi completi, e questo è uno dei motivi del voto contrario, gli elenchi completi con le morosità, gli elenchi completi con i canoni aggiornati. È stata anche approvata una delibera che doveva appunto adeguare i canoni, ma ancora non è attiva. Certo, ma è un gran classico. Io do un'altra cifra: il comune nel 2013 ha ricavato 27,1 milioni di euro dagli immobili di proprietà, una media d'appartamento, scrivevano Stella e Rizzo, di 52 euro al mese. Cuccari, questa è la media di quanto incassa il comune. Sì, le posso dire che comunque ha affittato comunque per il comune, per l'emergenza abitativa, per 21 milioni e siamo passati a un costo medio metro quadro di 3,72, quindi sì. Noi facciamo come il Marchese del Grillo, compriamo vendiamo la legna a un quinto e compriamo il carbone a 5 volte il prezzo. Quindi voglio dire, se tu affitti a 372 media di Roma affitto. E poi invece comunque ricavi 53 euro, è una cosa assurda. Cioè sì, quando il comune di Roma deve affittare va dagli immobiliaristi e affitta, quindi, affitta e paga. Quando invece deve dare in affitto ricava, insomma, 52 euro al mese con informazioni a portata di tutti quanti, insomma, questa qua è la, e infatti è la realtà, lei Cuccari che accusa fa? La fa la politica, la dirigenza? No, cioè, perché l'ha fatto intanto tutto questo lavoro certosino? Ma io richiamo un po' il senso civico, voglio dire, è anche il momento un po' di muoversi come senso civico. Ieri sono stato informato che il Movimento 5 Stelle ha fatto la stessa iniziativa, ha raggiunto un po' gli stessi parametri, sì. E quindi ci si sta muovendo, però se non capiamo che comunque questa qua è la collettività, sono i soldi, i nostri soldi via discorrendo, e noi che continuiamo a dire non ci sono i soldi per mantenere illuminate le strade, per non fare le buche o per togliere comunque l'assistenza domiciliare a famiglie che hanno problemi con handicap e via discorrendo. Se noi andiamo a vedere soltanto per l'incremento Istat, se fosse stato applicato l'incremento Istat avremmo avuto almeno altri 60 milioni solo come incremento Istat. Sì, sì, sì. Ma perché c'è, non voglio dire, neanche l'incremento Istat, l'incremento Istat c'è su tutto, perché su quello? Spingi il bottone, voglio dire, no? Spingi il bottone per l'incremento Istat annuale. Dopodiché io ritengo che comunque questi apparati, il comune via discorrendo, ci abbiano almeno 100 tra funzionari, dirigenti via discorrendo che seguono delle cose del genere. Mai, mai verificato se ancora sussistono le problematiche per cui ci sono tutti questi attrezzi di affitto. Cosa anche più assurda è che comunque nello stesso immobile del Comune di Roma noi troviamo affitti a 7,77 e poi degli affitti a 500 euro. Sì, infatti. In quel caso magari sono state delle famiglie che hanno detto no, non abbiamo più i requisiti, vi ridiamo questo immobile, quindi non sono più rientrati nel. Sì, ma ci sono dei casi che venivano citati anche nell'articolo di Stella e Rizzo, cioè bar che pagano d'affitto 52 euro al mese, cioè un bar, un'attività commerciale che paga 52 euro al mese a Santa Maria Trastevere, poi stiamo parlando, non è che stiamo parlando dell'estrema periferia di Roma. Maggi, è vero che c'è anche una società privata che dovrebbe controllare tutto questo, quindi che paghiamo anche come soldi al Comune di Roma. Ma c'è una società privata con la quale poi è nato un contenzioso per la gestione di questo servizio, ora si sta passando a un'altra società, però chiediamoci perché accade questo. Appunto. Cioè, se uno ha un proprio patrimonio e diciamo lo svende o comunque non lo mette a reddito in alcun modo, cioè, o uno ci guadagna, cioè, o è un qualche interesse bieco e la procura indagherà, o se no qual è il motivo? E nello stesso tempo poi va ad affittare sul mercato immobiliare di fitti passivi, fino ora siamo scesi sotto i 100 milioni di euro l'anno, fino a un paio d'anni fa stavamo sopra i 100 milioni. Allora un motivo ci deve essere, non è sbadataggine, no? Allora il motivo è che in questo modo si alimentano delle clientele, così come si alimentano, cioè nel momento in cui io vado ad affittare degli immobili che il Comune di Roma usa come uffici o per l'emergenza abitativa da delle società immobiliari, sto facendo un favore a questi signori che lo restituiranno alla politica in qualche modo. Cioè, ma che vuol dire? Ti do la casa 7 euro, tu mi voti? Questo è il concetto. Questo è in un senso, nell'altro senso ci sono dei signori imprenditori palazzinari, molte società sono note, alcune anche finite nell'inchiesta di cui leggiamo in questi giorni sui giornali, che restituiscono in termini di finanziamenti elettorali, in termini di favori. È questo il sistema romano, è così che si alimenta il consenso elettorale, il consenso delle preferenze. Allora si spiega un po' tutto in questo modo, altrimenti diciamo sarebbe semplicemente incapacità o sbadataggine degli amministratori. Sì, tra l'altro io voglio ricordare anche il numero per intervenire, 800 24 00 24, perché dopo la pubblicità qualche ascoltatore, se vorrà commentare queste cifre, che ripeto io quando le ho lette le ho dovute leggere 15 volte, perché insomma pensare che 7.000 case su delle 24.000 sono affittate a 7,75 euro è davvero incredibile. Per concludere però, domanda politica a Riccardo Maggi. Marino, pare che in prota l'assessore che ha lasciato abbia detto, così scrive il Corriere, ormai è fuori di testa. Marino deve lasciare, non deve lasciare, lei che dice? Quella che sta sotto gli occhi di tutti è una crisi politica istituzionale e purtroppo si sta riducendo a uno scontro interno al PD. Sì. Allora, innanzitutto il sindaco deve riportarla nella sede istituzionale, deve venire in consiglio parlando quindi ai rappresentanti dei cittadini, sì, alla comunità cittadina, dire che cosa non ha funzionato, perché al di là dell'aspetto giudiziario ci sono dei meccanismi di controllo interni all'amministrazione che non hanno evidentemente funzionato. Però qui c'è l'aspetto politico che preme di più, cioè c'è Renzi che dice anche oggi sul Corriere Marino non è più in grado di continuare. Allora abbiamo ascoltato tutti i big del governo e del PD per una settimana a difendere Marino perché era onesto. Io personalmente, sì, ho sempre detto che l'onestà dovrebbe essere una base di partenza, un prerequisito per governare. Adesso, se Marino è in grado di indicare due o tre punti da cui ripartire, lo deve fare, ha il dovere di farlo perché è stato eletto. Sì. Evidentemente, se non ce ne sono le condizioni perché sono troppo impegnati a mettere insieme, diciamo, i gocci di un partito, allora certo deve abbandonare, ma deve lasciare per questo motivo. No, ma è chiaro, però mi sembra che l'abbia detto chiaramente, a meno che non cambi qualcosa, vuole andare avanti addirittura un secondo mandato, per cui insomma dire per fare cosa? Non basta dire io sono onesto, insomma, no, e sono diverso dagli altri, anche perché non è una lettura credibile di quello che è accaduto. Quello che è accaduto è un fatto di sistema, ci deve dire se lui lo ha capito e come può risolverlo. Ma i radicali sono pronti anche a togliere il voto a Marino? Ma noi l'abbiamo già tolto diverse volte in questi due anni su singoli provvedimenti che non ci convincevano, quindi ci devono convincere i punti per ripartire, un nuovo patto con la città, diciamo così. Va bene, allora intanto io vi ringrazio. Gianpaolo Cuccari, voglio ricordare, è colui che da privato cittadino è andato a esaminare 24.500 appartamenti e ha scoperto queste cifre incredibili, alcuni dei quali affittati a 7 euro, 7.000 appartamenti affittati a 7 euro. Lo ringrazio per essere stato con noi, così come Riccardo Maggi, che è presidente dei Radicali e consigliere comunale a Roma. Se volete 800 24 00 24 per intervenire come ascoltatori. Dopo la pubblicità avremo anche il procuratore di Agrigento, Renato Di Natale, per capire cosa è successo su questo gommone di migranti dove si parla di colpi d'arma da fuoco. Abbiamo parlato di come viene gestito il patrimonio immobiliare a Roma, il comune di Roma. Su questo Giorgio da Roma vuole intervenire, ci ha chiamato. Giorgio, buongiorno. Buongiorno a lei, agli ascoltatori. Velocissimamente, sì, io sono proprietario di un immobile all'interno di un consorzio che è ubicato tra la Giustiniana e la Cassia. Sono tutti appartamenti nuovi, io ne ho affittato uno a 720 euro con contratto regolare, con la cedolare secca. Sì. Alcuni immobiliaristi, preferirei non fare i nomi, sono due o tre grosse, sì, aziende, hanno del grosso invenduto e quindi lo hanno recentemente, questo a dire che per confermare che il problema involve qualunque tipo di amministrazione indipendentemente dal colore, hanno affittato ad alcuni immobiliaristi per le esigenze abitative a canoni di mercato. Sì. Questo vuol dire che sotto un duplice profilo, da una parte c'è quello che stavate dicendo voi, cioè questa cosa incredibile del Marchese del Grillo, quindi è un'esperienza concreta, dall'altra ovviamente, senza essere men che meno razzisti, ma indubbiamente va anche a provocare un disvalore su quegli immobili che peraltro hanno delle rendite catastali che sono ovviamente parametrate alla situazione precedente. È un caso concreto di quello che abbiamo raccontato e la ringrazio, Giorgio. Beh, è davvero incredibile sapere che comunque a Roma vengano affittati patrimonio immobiliare del comune 7.066 su 42.000 case a 7,75 euro al mese. Ripeto, 7,75 euro non è un errore, 7,75 euro al mese di affitto. Va bene, magari sentiremo anche qualche altro ascoltatore. Prima però voglio salutare e ringraziare il procuratore di Agrigento, procuratore capo Renato Di Natale. Buongiorno procuratore. Buongiorno. E grazie di essere con noi, perché ci può aiutare a capire, perché avete aperto un fascicolo, magari qualcosa da capire dovete averla anche voi, perché ci sono dati controversi su quello che sarebbe successo nei confronti di un barcone di migranti con spari, dicono alcuni testimoni, addirittura un morto che però non si trova. Procuratore Di Natale, ci può aiutare a capire qualcosa di più di quello che è successo? Sì, i margini della vicenda, i contorni della vicenda non sono ancora granché chiari, c'è solo la deposizione di un immigrato che è stato colpito a un polpaccio dagli spari provenienti, anche lì ci sono margini di dubbio, da una militare di una motovedetta o in alternativa da parte di soggetti che volevano compiere una rapina. Sì, quindi non si sa, il cadavere non esiste. Il cadavere no, parrebbe non esistere, è oggetto di ciò che ha riferito l'immigrato. Evidentemente al momento in cui gli altri migranti approderanno sulla terraferma sarà possibile rendere un po' meno nebulosa tutta questa la vicenda. Perché non si capisce bene anche che tipo di reati si potrebbero qui, nel caso ci fossero anche degli spari, voglio dire, coinvolgono un territorio straniero, cioè che tipo di reati si potrebbero... Questo certamente è tentato omicidio o l'omicidio se ci fosse il cadavere, e in ogni caso siamo in acque extraterritoriali. La competenza appartiene, secondo la possibile giurisprudenza, alla prima autorità giudiziaria che scrive il fascicolo nel registro degli indagati. Chiaramente sarà difficile individuare i responsabili. E questo sì. Ah, questo però è testimonianza di quello che succede ogni giorno nel canale di Sicilia, no? Ancora ci sono migranti che vengono regolarmente ogni giorno portati sulle nostre coste, no, procuratore? Questo sì, lo vediamo anche in questi momenti, pare che ci siano diversi barconi, diversi salvataggi con arrivi dei migranti in varie parti dell'Italia. Le chiedo questo: sa che c'è stata una proposta lanciata dal Foglio di Cerasa di utilizzare l'isola di Pianosa come una sorta di Ellis Island a New York negli Stati Uniti, cioè utilizzare un'isola e mettere i migranti lì. Lei da uomo comunque che si occupa per una prossimità geografica di queste vicende, che ne pensa? Mi lascia perplesso questa idea. Perché? Perché sarebbe come relegarli in una zona dalla quale non possono più muoversi, non possono più avere margini di libertà, che in una certa misura sono dovuti anche a coloro che sono migranti. Ovviamente sarebbero lì nel momento, per il tempo in cui si decide e si esaminano le loro domande. Dal punto di vista giudiziario sarebbe una cosa utilissima, perché spesso nel momento in cui noi ci troviamo a dover identificare gli scafisti, i migranti che sono in giro per l'Italia o addirittura fuggiti dai posti dove vengono ricoverati, e abbiamo difficoltà spesso al loro rintraccio e quindi a portarli in udienza per effettuare il cosiddetto incidente probatorio. Però questa sarebbe, diciamo, l'unica cosa positiva, cioè poterli individuare. Ecco. Sotto l'aspetto processuale sarebbe una cosa positiva, così come accadeva in passato, quanto normalmente, ma i numeri erano assai più bassi, normalmente venivano tenuti a Lampedusa, da dove era difficile fuggire e andare via. Va bene, procuratore, intanto la ringrazio in attesa di capire che cosa succederà, insomma, queste testimonianze, che cosa ci porteranno, ecco, su questi spari. La ringrazio per essere stato con noi, prego, procuratore, prego. Capo di Agrigento Renato Di Natale, ovviamente buona giornata. Sì, gli affitti sono a 7,75 euro, per tornare alla questione di Roma, perché molta gente me lo chiede, me lo scrive via sms al 349-238-6666 a dire: ma siete davvero sicuri? Sì. Grazie al lavoro certosino di questo signore che è stato con noi, Giampaolo Cuccari, che ha esaminato dati che erano lì sotto gli occhi di tutti, di 24.525 appartamenti di proprietà del Comune di Roma, si è potuto sapere che il canone incassato dal Comune di Roma per 7.066 di queste case è di 7,75 euro. Voi l'affittereste una bella casa a 7,75 euro? Vi dicono. Poi attenzione, molte case affittate a quanto? A 5.000 case a meno di 50 euro, affittereste la vostra casa a 50 euro? 7.000 case a 100 euro affittate, 100 euro, dai, il traffico, poi rientriamo. No, mi scrivono, ma questi 7066 che occupano questa casa non si vergognano? Mi chiedono, ascolta. No, ma che si vergognano? Sono lì che dicono, oh, speriamo che nessuno continui a non accorgersene come sta succedendo da 30 anni a questa parte. E a volte non pagano. Straordinario anche l'ascoltatore che mi scrive 7,75 euro. E dai, su, è una virgola che si è spostata a sinistra di due posti per sbaglio. E invece di 775 è diventato 7,75. Su. Comunque, dai, Alessandro da Frosinone, che ci vuole dire? Buongiorno, Alessandro. Buongiorno, buongiorno e grazie dell'intervento. Volevo dire che volevo raccontare la mia storia di un povero ricco. Sì. Perché io nel 2010 sono diventato ricco perché patrimonio immobiliare ereditato, due ville in montagna, tre appartamenti, due negozi, ma l'anno dopo mi sono reso conto che ero diventato povero perché non li potevo mantenere. Però Alessandro, cioè, ci sono di cazze peggiori. Li venda se proprio non se li può mantenere. Però certo, il problema della tassazione sugli immobili è un problema, è un po' diverso rispetto al tema che affrontiamo oggi. Però quant'è che cos'è? Due ville, tre negozi? Ci sono disgrazie peggiori per l'appunto. Sergio da Varese, buongiorno. Buongiorno Milan, io volevo solo dire, ho gestito un'azienda municipalizzata e ho trovato una situazione in piccolo simile a quella di Roma. Sì. Ma perché? Cioè, perché non si riesce? Uno vede i conti, perché a Roma li vedranno 7,70 euro e non riescono a fare niente o non vogliono fare niente. Perché? Milan era un'azienda che 10 anni fa era solida, faceva profitti, aveva un patrimonio solido. Dopo 10 anni di gestione clientelare, come diceva anche la persona che è intervenuta prima, l'azienda era distrutta. Siamo sempre lì, Sergio. Me lo dica anche lei, perché la cosa pubblica, essendo pubblica, non è di nessuno. È questo il concetto. Il problema è che ho avuto casi di persone che venivano lì per pagare l'affitto. E dicevano, ma in passato venivo qua e mi dicevano, ma lascia perdere, non pagare. Eccolo lì. Tanto è di tutti. Essendo cose pubbliche. È di pubblica, è così, Sergio. Essendo pubblica è di nessuno. Questa cosa mi fa incazzare. Dovrebbe essere pubblica, quindi di tutti. E tutti, invece, essendo pubblica, viene considerata così, di nessuno. Sandro da Firenze, buongiorno. Buongiorno. Niente, io volevo intervenire dicendo un po' il mio problema. Io sono un non vedente. Sì. Volevo parlare di mio figlio, il quale è disabile. Abbiamo un chiosco di giornali che sono andati tutti in grande disgrazia perché ora le vendite sono azzerate. Niente, c'è il discorso della tranvia a Firenze che lì ci hanno fatto e quindi noi siamo ingabbiati con guadagni della perdita del oltre il 90%. Va bene, Sandro, ma cosa c'entra con il tema di oggi? C'è un problema? No, c'entra questo, che siccome c'è volevo solamente dire che c'è un disagio generalizzato, perché c'è un sacco di persone che noi conosciamo personalmente a 50 euro al mese per gli affitti. Ecco. E alcuni, addirittura alcuni, dice, ma è un pezzo che non pago, ma tanto non ci fanno niente, ormai c'è questa idea di questo. Quindi c'è un problema che non va a tutti i livelli. Io lo so che oggi il tema è un altro. No, invece se la mette su questo piano, cioè dire che lei sconta questa problematica quando sa di persone che non pagano 50 euro l'affitto, magari immagino di immobili comunali, tanto nessuno fa niente, come no, c'entra assolutamente, Sandro. È che vado di fretta e vorrei dare la parola anche ad Emiliano da Roma. Emiliano, buongiorno. Ciao Emiliano. Ciao. Ciao, volevo intervenire per cercare di capire che le denunce che sono state fatte stamattina sul fatto degli affitti di 7,75 euro, quant'è, sono pesantissime. Gli edifici, gli appartamenti sono molti a questo prezzo e mi sembra assurdo che non ci sia nessuno che possa replicare dal lato del comune, nel senso non è un'informazione puntuale su un dettaglio, stiamo parlando di una cosa abbastanza grande. E li chiameremo. Emiliano, li chiameremo, guardi che lo sanno benissimo, cioè il comune di Roma, ma lo sanno da decenni che è così. Evidentemente non si riesce a capire dove si può mettere mano per capire come rimediare a questa situazione. Comunque li chiameremo, se volete chiameremo l'assessore Sabella, l'assessore alla legalità, o chi vuole parlare, l'assessore al patrimonio, se vogliono parlare noi siamo aperti a tutti. Emiliano, la ringrazio intanto per la segnalazione e chiudiamo con la nostra segreteria telefonica, il nostro numero 02 4652 4492. Potete dire quello che volete. Marino ha detto che noi di destra veniamo dalle fogne. Allora io ci tengo a dire che non sono venuta da una fogna, ma che se continua a governare lui Roma, finiremo tutti nelle fogne, compresa la sinistra che lo appoggia. Amore, mi prenderesti il ketchup? È lì in frigo, sulla seconda mensola, a fianco a Salvini. I will tell you my story, especially the part about the girls and the banga banga. Milan, te lo dice un romagnolo, ma sei fuori come un coppo! Per salvare la Grecia, usate il metodo Lotito. Milan, la radio costa! Cazzeggiando al mattino, l'ultimo libro di Alessandro Milan. Il primo sarebbe di libro, peraltro. Caro ascoltatore, 0246524492 è la nostra segreteria telefonica di 24 mattino. Ci trovate dovunque, su Facebook, su Twitter, ci sono anch'io su Twitter con il mio profilo personale Alino Milan, se volete seguirmi. E siamo in onda dalle 6.30 sempre con Lorenzo Nespoli, Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione e il nostro alpino Peter Bescapè in regia, col nostro motto. Il nostro motto, ormai lo sapete, non è tanto il motto perché è di Berlusconi, attaccare! Ma perché è così, è perché è quello. Il motto è comprare anche magari qualche giocatore, comprare e attaccare, attaccare e comprare. Ciao! Attaccare!